l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet.eu, network di radio europee per dare voce all'Europa. Radio 24 lo fa quotidianamente seguendo l'attualità, la politica, l'economia. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista, insomma cerchiamo di respirare quella che è la cultura europea. 349-238-6666 per i vostri sms, oppure ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, pagina che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati, oppure anche su Twitter a nome Federico Taddia. Queste insomma le coordinate, si parte come ogni sabato un viaggio, il viaggio di oggi come prima tappa vede il Belgio. Il y a un désaccord aujourd'hui, effectivement on joue avec le feu. Et on plonge la population de notre pays dans les grandes difficultés. Les socialistes et les démocrates chrétiens fustigent les libéraux qui réclament davantage de coupes budgétaires. De la politique de bas étage. Sono voci di alcuni politici che parlano della situazione belga, insomma, in questa Europa di cambiamento, dove l'Italia è in testa, ma non solo, c'è una crisi che avanza, che ristagna. Ormai da mesi ci sono governi che nascono, governi che finiscono, governi che cambiano e governi che non esistono. Questa è la situazione belga da oltre 500 e passa giorni, sono senza un governo. E situazione, insomma, alla quale anche i cittadini si stavano abituando, anche se adesso ci sono scadenze importanti, come quella della presentazione di un bilancio, e quindi si sta cercando di correre ai ripari, si sta cercando di formare un governo last minute, ma la situazione è quanto mai complicata. Per capire, per fotografare quello che sta accadendo in Belgio, come sempre abbiamo la nostra voce, lui è un giornalista della TV belga, diamo il ben ritrovato a Pierre Marlet. Ciao Pierre. Ciao. Come stai? Buongiorno. Ah, come tutta Europa, un poco groggy oggi, ma insomma, andiamo a vedere come fare. Allora, cosa sta succedendo? Tu, insomma, ci hai abbastanza fatto la cronaca in questi mesi del Belgio senza governo, però si sta arrivando a un nodo cruciale. Questo governo ora serve? Ma posso darti un pronostico, sì? Direttamente? Credo che domani avremo un bilancio e la settimana prossima un governo finalmente. Perché? Perché quando si gioca con il fuoco, come si dice in francese, quando si gioca con il fuoco si brucia, e adesso è un po' la situazione qui in questo paese, perché non abbiamo di governo da più di 500 giorni, l'hai detto Federico, e adesso cominciamo a pagarlo, perché ieri la Moody's ha disgradato la nota del Belgio. Avevamo un AA+, adesso abbiamo un AA. Questo è un poco meglio dell'Italia, certo, ma si approssima, si avvicina all'Italia. E tutti i nostri vicini, la Olanda, l'Alemania, Lussemburgo e Francia, hanno ancora un triple A. Ciò vuol dire che c'è un poco di problema con i tassi di interessi che vanno a, come in Italia, insomma, crescere sempre di più, e sarà sempre più difficile. E allora ieri, quando la notizia di Moody's è venuto, direttamente i politici hanno cominciato a passare la notte per provare di fare questo bilancio. Hanno passato la notte bianca, hanno cominciato la negoziazione ieri sera, e a questo momento stanno ancora a negoziare per trovare la soluzione, e credo che vanno a trovarla. Soluzione che vedrà sempre Elio Di Rupo come protagonista, pensi? Sì, Elio Di Rupo sarà il primo ministro. Cioè è un primo ministro francofono, questa è la prima volta, l'ultima volta era in 1973, cioè un poco storico, e Elio Di Rupo è anche di, come si nome indica, di origine italiana, e credo che questo socialista deve governare, come in tutta Europa, con economie, perché la situazione è molto difficile. Ma la situazione perché è un poco difficile in Belgio di fare il bilancio e perché dobbiamo negoziare tra i socialisti, cioè la sinistra, sì, i liberali, cioè la destra, e il centro. E tutti insieme devono decidere ciò che andiamo a fare con economie importanti, insomma un poco come tutti, e avevamo pensato che il più difficile era fatto, il più difficile per noi era l'accordo istituzionale di settembre, più di competenze verso le regioni, un accordo circa Bruxelles. E avevamo pensato, va bene, adesso il più difficile è passato, ma con questa crisi il più difficile era fare il bilancio, ma credo che questi politici devono adesso smettere con queste negoziazioni, questi piccoli giochi e tutto questo, perché adesso la crisi è mondiale. È un poco la morale della storia, nostri eterni problemi, fiamminghi, valoni, certo, sono finalmente poca cosa in confronto a questa crisi mondiale, mm-hmm, ma la prossima volta è meglio di pensarlo prima, ma insomma. Quindi insomma anche i cittadini che un po' si erano abituati a un non governo sentono il bisogno, sentono l'esigenza di un cambio di marcia, insomma quello che non ha fatto la politica lo sta facendo l'economia, quindi dare l'ultimo colpo a questo governo che insomma deve nascere per risolvere problemi reali, problemi concreti che ci sono. Qual è un po' il polso, qual è l'umore dei cittadini, Pier? Ma oggi l'umore è di avere capito che la situazione non era disperata, ma era grave, era tragica. Perché adesso tutti sanno che dobbiamo fare economie importanti e che bisogna un governo per decidere cose come su problema di pensioni, su economie, su un poco come in tutti i paesi d'Europa, bisogna un governo. Ma i cittadini oggi con questa Moody's che ha dato un AA, una nota meno importante al Belgio, i cittadini pensano ma insomma devono adesso fare, essere uomini responsabili questi politici e non sempre discutere tra la destra e la sinistra, devono pensare a questo paese, a nostro avvenire finalmente che dobbiamo come i vicini hanno situazione migliore che il Belgio. Certo, quindi insomma è un proprio paese normalmente ricco e adesso abbiamo pensato che la ricchezza se va fuori del paese. Sì, insomma, quindi un richiamo alla responsabilità di tutti. Pier, come sempre, grazie per averci fotografato la situazione, ma ci ritroveremo sicuramente prossimamente per presentare questo nuovo governo che nascerà in Belgio. Ciao e buon lavoro, perché immagino saranno ore intense per voi giornalisti. Ciao Pier, grazie. Grazie, grazie. Ciao a Federico. Europost-it. Vai a Bruxelles con la tua classe per respirare aria d'Europa. Se hai tra i 16 e i 17 anni e vuoi vedere da vicino come si governa l'Europa, partecipa con la tua scuola alla terza edizione del progetto Your Europe, Your Say. Il Comitato Economico e Sociale Europeo dà l'opportunità a 100 studenti provenienti dai 27 paesi dell'Unione di simulare una sessione plenaria a Bruxelles a fine aprile 2012. Niente paura, nessuno nasce imparato. Una volta selezionati, un rappresentante del Comitato verrà nella vostra scuola per rispondere a qualunque vostra domanda e per scegliere 3 studenti che vi rappresentino a Bruxelles come delegati provetti. Parla con la tua insegnante e dille che le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre. Per maggiori informazioni visita il sito eesc.europa.eu. The ministers of environment concluded that Europe is open to step in a continuation of the Kyoto Protocol. That is a positive thing. But the negative side is that there are a lot of conditions where they say we only are in favor of continuing Kyoto if the other countries are joining in. And then we are in the same situation that we all wait for. Quello che sentite parlare, Bas Eickhout dei Verdi europei, sta parlando dei pro e dei contro della posizione europea sul protocollo di Kyoto a Durban, perché il tema scelto da Euronet questa settimana è proprio il cambiamento climatico. L'Europa si può permettere di aspettare mentre cominciano i dibattiti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Durban, inizierà tra pochi giorni, il 28 novembre, la conferenza sul clima di Durban, COP17, e l'Europa, insomma, anche rispetto al protocollo di Kyoto che decade nel 2012, questa Europa tutta centrata sulla crisi, quali posizioni sta prendendo, sta adottando nei confronti del cambiamento climatico? Di questo parliamo con in Euronet questa settimana. Ogni nazione porta il proprio contributo e noi il nostro particolare contributo lo abbiamo chiesto, lo vogliamo chiedere a Maria Grazia Midulla, che è la responsabile del policy clima ed energia delle WWF Italia, che è in procinto di partire per Durban. Ciao Maria Grazia, benvenuta all'Altra Europa. Salve, ciao a tutti. Buongiorno. Allora Maria Grazia, con che spirito intanto ti prepari a partire per questa conferenza, che credo sia un passaggio fondamentale? Ogni volta che ci sono queste conferenze si etichettano un po' come passaggi fondamentali, però credo che a questo giro, da un certo punto di vista le date, dall'altro punto di vista quello che vediamo quotidianamente, quello che il clima ci sta raccontando, insomma, ci chiamano a un'attenzione particolare. Sì, io credo che ci sia una notevole discrasia tra l'allarme della gente. Io ne parlo con le persone normali che non sanno neanche quello che faccio nella vita, e invece l'azione dei governi in generale e anche l'attenzione dei media, perché l'attenzione dei media si è un po', diciamo, ravvivata solamente nell'ultimo periodo. Noi dobbiamo comprendere, secondo me, che le radici della crisi economica, le radici della crisi ambientale sono un po' le stesse. E che oggi affrontare la crisi ambientale vuol dire anche avere in mano un pacchetto di soluzioni per la crisi economica. Sembra uno slogan, ma in realtà in tutto il mondo sta avvenendo questo, perché in tutto il mondo si stanno facendo dei piani che hanno radici fortissime nella cosiddetta green economy, nella nuova economia. Però noi dobbiamo non perdere di vista l'obiettivo ambientale, di qui la necessità di avere dei target, degli obiettivi chiari. Purtroppo le emissioni a livello mondiale stanno salendo a ritmi impressionanti. L'UNEP proprio in questi giorni ha rilasciato un rapporto in cui dice che la finestra per agire si va riducendo, non chiudendo. Quindi da una parte io vorrei dare un messaggio di ottimismo, dall'altra però i governi si devono smuovere, devono, diciamo così, non vedere davanti a loro soltanto un problema per volta e soltanto l'immediata contingenza. I disastri di questi giorni hanno dimostrato che se uno agisce solo nell'emergenza poi non fa che procurare nuove emergenze. Certo. Maria Grazia, lì ci sarà tutto il mondo riunito. L'Europa arriverà proponendo cosa, chiedendo cosa, e anche voi cosa chiederete all'Europa? L'Europa che arriva lì con una posizione che è una posizione negoziale. È una posizione negoziale ancora una volta. Però nei negoziati sul clima c'è bisogno di leader, e quello che noi disperatamente chiediamo è che l'Europa agisca di nuovo da leader. Il protocollo di Kyoto è andato avanti proprio per la leadership europea, successe nel 2002 a Bonn. E ora quello che noi vediamo è una posizione in cui si dice sì, noi vogliamo andare avanti, però ci si nasconde dietro le posizioni degli altri paesi. Secondo me l'andare avanti su Kyoto è non solo imprescindibile, perché si sono messi in moto dei meccanismi che comunque fanno parte della legislazione europea, quindi andranno avanti in ogni caso, ma soprattutto per l'Europa la sfida climatica è strettamente connessa alla sfida energetica e alla sicurezza energetica. Quindi in fondo noi dobbiamo tagliare le emissioni non soltanto per il clima, ma anche per assicurarci la nostra sicurezza energetica. l'Europa ha tutto il vantaggio ad andare avanti su questa strada e ha tutto il vantaggio a usare questa come diciamo una posizione di leadership e non sempre di rimessa. D'altro canto, se il protocollo di Kyoto avrà un secondo periodo di validità, perché appunto come ricordava nel 2012 scade il primo periodo di impegni, questo costituirà una condizione necessaria perché altri paesi diciamo aderiscano al trattato globale. Certo. Per le economie emergenti il protocollo di Kyoto è una condicio sine qua non, nell'Europa lo sa benissimo. Ma in Europa c'è una nazione che secondo te è particolarmente virtuosa? Cioè, se tu potessi consigliare anche al neo ministro italiano dell'ambiente una nazione da prendere come faro, da prendere come modello, quale nazione consiglieresti? Se c'è, se si può fare un esempio. Ovviamente tutte le nazioni hanno sempre al loro interno i pro e i contro e nessuno può essere additato a esempio di virtù assoluta. Però quasi tutti i paesi europei si sono dotati di provvedimenti e di target di riduzione abbastanza ambiziosi. Vorrei ricordare la Germania con il 40% di riduzione delle emissioni entro il 2020, la Germania che sta andando e sta perseguendo un piano di 100% rinnovabili entro il 2050. Vorrei ricordare la Gran Bretagna che si è dotata di una legge sul clima, che è una legge diciamo complessiva, quadro, che poi al suo interno ha una serie di politiche e ha diciamo stimola una serie di politiche, la Gran Bretagna che ha ribadito il sostegno al protocollo di Kyoto proprio pochi giorni fa e ha il suo sostegno ad aumentare le ambizioni europee di riduzione, perché il 20% è poco per l'Europa, è sicuramente molto poco perché è già la strada su cui siamo avviati. E la Gran Bretagna che ha un target addirittura del 50% di riduzione entro il 2025. Come si vede, la questione fondamentale è la strategicità. L'abbiamo ribadito anche al neoministro Clini, noi ci aspettiamo che l'Italia smetta di agire diciamo sul day by day, un provvedimento qui, un passo avanti, tre indietro, eccetera, eccetera, e si doti di una strategia organica e lungimirante. Come tutti gli altri paesi, grandi paesi, tra l'altro anche come la Cina, il Messico, il Sudafrica, non voglio dire non solamente i paesi europei. Certo. Maria Grazia, grazie davvero e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Ricordiamo che seguirai anche, racconterai via Twitter l'intero COP17, la conferenza sul clima di Durban. Abbiamo già pubblicato il sito sulle nostre pagine in Facebook, oppure insomma chiocciola WWF Italia appunto è come trovarvi su Twitter, oppure wwf.it/COP17. Grazie davvero, grazie. Buon lavoro, ciao ciao. Grazie ciao. Mille, arrivederci. Europost-it. Riduciamo i rifiuti. Da oggi al 27 novembre si celebra la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Una settimana nata all'interno del programma Life Plus della Commissione europea con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori sulle strategie progettate dall'Unione europea per ridurre i rifiuti. Anche le aziende e le pubbliche amministrazioni si sono concentrate a pensare ad azioni e idee per ridurre gli sprechi, ad esempio negli imballaggi dei prodotti. Siete curiosi e volete fare qualcosa anche voi? Andate su ecodallecittà.it/meno rifiuti. Arthur, who was one of the co-founders as a chef, he found that a lot of people were still buying rubbish food that was sort of cheap and being forced into buying lots of food that they didn't want from supermarkets, and he really wanted there to be an affordable alternative to that. And it's based on the Park Slope model in New York, whereby they've had a cooperative set up there for, well, since 1973 now. So that's quite a while, over 35 years, and it's the most profitable supermarket in terms of turnover. E in questa settimana europea per la riduzione dei rifiuti, ma anche settimana europea contro lo spreco, oggi anche in Italia la giornata della colletta alimentare, insomma un mix di spunti per parlare di una bella storia come quelle che ci piace trovare in giro per l'Europa. E stiamo parlando di The People Supermarket. È un supermarket molto particolare, molto caratteristico, credo un'esperienza unica in Europa. E per conoscerla meglio abbiamo convocato una persona che questo People Supermarket lo frequenta. Diamo il benvenuto a Maria Teresa Salvati. Ciao Maria Teresa. Ciao Federico. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Tu vivi a Londra? Grazie a voi. Vivi a Londra, sì, vero? Vivo a Londra. Da quanto? Sì. Da 8 anni. E cosa combini a Londra? Un bel po'. Lavoro in pubblicità, ma in parallelo mi occupo di lavoro su diversi progetti indipendenti legati al mondo dell'arte e del non profit. Ho capito. E sei una fan di questo particolare supermarket? Ce lo puoi raccontare? Sì. Che esperienza è? Nasce dall'ambizione di Arthur Pott Dawson, che è forse colui che sentivate prima in diretta. Lui ha lavorato per molti anni nel settore del retailing e a un certo punto si è reso conto che nonostante ci fossero sempre più notizie circa compagnie agricole in fallimento, i supermercati continuavano a raccontare di profitti e di bonus ai vari boss. E quindi ha deciso di creare un'alternativa alla catena del mercato che conosciamo oggi, che va proprio nella direzione della riduzione degli sprechi, nel dare alle persone il potere di decidere quando comprare, cosa comprare, prodotti legati spesso alla stagione, a una catena sostenibile che appunto vada ad aiutare le persone locali e anche soprattutto gli agricoltori. Mm-hmm. Perché i supermercati quando prendono dei prodotti all'interno del loro negozio, i prodotti, specialmente se c'è un servizio televisivo in televisione qui fatto appunto per lanciare The People Supermarket, i broccoli dovevano essere esattamente della stessa misura che il supermercato imponeva, e se non erano tali c'erano quintali di prodotti che venivano buttati ogni anno. E quindi Arthur aveva appunto l'obiettivo di connettere la comunità urbana con la comunità agricola e di creare questa relazione in modo tale che sviluppi un concetto sostenibile del supermercato, della catena alimentare. Certo, quindi comunque prodotti a chilometro zero, prodotti anche in scadenza, sì. Vero? Nel senso che... Sì. E quindi a prezzo ridotto, immagino... A prezzo ridotto per quello che si può, nel senso che l'obiettivo è quello di vendere prodotti che appunto non costino troppo, perché si riduce il middleman, quindi c'è quella relazione diretta tra il consumatore e il produttore. Però soprattutto prodotti di qualità e di a chilometro zero, quanto più possibile biologico, soprattutto stagionale. Il concetto di stagionale è molto importante, perché appunto tu vai a comprare prodotti che si producono in Inghilterra a chilometro zero, come dicevi tu, e quindi insomma c'è tutto da guadagnare. Certo. È un concetto molto molto bello, cioè soprattutto appunto accennavi alla data di scadenza. Il supermercato fa in modo che la maggior parte dei supermercati butta, e di nuovo sempre sul tema dello spreco, appena c'è la data di scadenza, lo giorno stesso vengono buttati quintali di roba. Sì, conosciamo bene. Ma quintali, è incredibile, perché molto spesso la data è solo un numero di convenienza, cioè non vuol dire che il prodotto non si può più usare. Quindi spesso cucinano delle cose all'interno del supermercato e le vendono il giorno stesso, quindi magari con la patata o non so il broccolo che sta andando male fanno la zuppa. Cioè, dire che sta andando male magari non sembra carino per i consumatori, per i frequentatori del supermercato, però spesso non c'è bisogno di buttare tutto quello che buttiamo. Assolutamente, sono insomma principi anche teorizzati da Andrea Segre, per esempio in Italia con il suo Last Minute Market, e qui è stato proprio concretizzato in un ambiente gestito da volontari con tutte le caratteristiche del supermarket, però con dietro principi etici molto forti. E grazie davvero per averlo frequentato per noi, per avercelo fatto vedere via radio. Maria Teresa Salvati da Londra, The People Supermarket, www.thepeoplesupermarket.org, il sito, l'abbiamo già pubblicato anche nelle nostre pagine in Facebook. Andiamo a Napoli oggi per parlare di Europa, perché c'è una chiave che ci ha incuriosito. Infatti il consolato di Germania si è adoperato per creare e distribuire ai turisti tedeschi una mappa di Napoli, una mappa pizzo free, cioè una mappa dove segnalare quei negozi, quei ristoranti, quei B&B che insomma hanno detto no al racket. E il consolato appunto ha deciso di regalare, di offrire ai turisti questa mappa proprio come segno di una città che si sta risvegliando, di una coscienza civile forte, nuova, e quindi anche questa è Napoli, e attraverso questa mappa si vuol far conoscere questa Napoli. Per parlare della mappa e soprattutto dell'iniziativa abbiamo invitato il console Seidler, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno console. Federico, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie. Consere, da quanto vive a Napoli? Io vivo a Napoli adesso dall'estate di quest'anno. Ah, quindi da poco? Da poco, sì. E le piace? Sì, mi piace moltissimo, sì. È una città viva? Sì, perché premetto che noi diplomatici siamo in continuo movimento e rimaniamo in un paese estero normalmente per 3, massimo 4 anni. E poi veniamo sempre trasferiti altrove e non succede quasi mai di andare 2 volte nella stessa città. Allora io invece ero già stato a Napoli dal 93 al 97 e mi ero trovato talmente bene che quest'anno ho chiesto di poterci anche ritornare. Fantastico. E l'ha trovata cambiata? L'ha trovata diversa la città? Per un poco, devo dire, sì. Okay. Ma mi sembra veramente, mi piace tantissimo di vivere a Napoli. E console, abbiamo letto di questa iniziativa che vi ha visti protagonisti, appunto, dell'offrire, del promuovere questa mappa pizzo free. Com'è nata l'idea del progetto? La prima mappa di questo tipo è stata realizzata a Palermo dal movimento Addio Pizzo qualche anno fa. Sì. E nel gennaio del 2010 l'ambasciata tedesca a Roma ha finanziato una prima edizione di questa mappa in lingua tedesca. All'epoca il nostro console generale Christian Muck faceva il capo della sezione culturale all'ambasciata e lui seguiva il progetto. Quando è stato trasferito a Napoli, allora è stato chiaro che ha portato l'idea con sé. E quindi insomma avete deciso, è stato scelto di realizzare questa mappa, ma che secondo lei è utile solo ai turisti tedeschi o è una mappa che può essere utile per qualsiasi persona che voglia visitare la città? Allora questa mappa è bilingue, questo è il primo punto. Allora questa mappa può essere ritirata qui al consolato da tutti i cittadini italiani e tedeschi. La mappa è utilissima anche per i napoletani per 2 motivi. Il primo, non ci sono solo i negozi di interesse turistico, ma anche ferramenta, commercialisti, imprese, edili e così via. Secondo, perché molti negozi si trovano in zone poco turistiche e vengono frequentati più da napoletani che da turisti. Certo, ecco, ma l'idea è quella di rassicurare un po' i turisti o offrire un'immagine diversa della città? Allora, là voglio, devo prima rispondere che la Campania e il Sud Italia hanno da sempre un grande fascino per i viaggiatori tedeschi. Certo. Da Goethe fino ai nostri giorni. Assolutamente. E questo fascino è più forte di qualunque piccolo pregiudizio. Tuttavia noi nel consolato tedesco cerchiamo di abbattere questi pregiudizi e migliorare la reciproca conoscenza con l'informazione che diamo ai tedeschi e agli italiani che si rivolgono a noi, con i nostri eventi culturali e sociali e con la nostra presenza anche sull'internet e social network. A proposito, sì? Consiglio a tutti di visitare la nostra pagina Facebook che si chiama Consolato Germania Napoli e cliccare mi piace per essere sempre aggiornati. Perfetto, la pubblicheremo anche noi nelle nostre pagine così la diffondiamo. Ottimo, grazie per questa iniziativa anche a lei. Console, un'ultima domanda, e quali sono stati i commenti di risposta a questa vostra iniziativa? Curiosità, attenzione, entusiasmo? No, allora veramente questa mappa, la mappa ha avuto un grande riscontro mediatico. La notizia era su tutti i giornali. È stato più volte sottolineato anche il fatto che un consolato straniero si è impegnato contro la mafia, riconoscendo che si tratta di un problema europeo e globale, non solamente del sud dell'Italia. Certo, è una... Nino Daniele, l'ex sindaco di Ercolano, anche ora presidente dell'Osservatorio sulla Camorra in Campania, ha definito la nostra mappa una cosa bellissima. La prima forma di internazionalizzazione del basso della lotta al racket, che è un problema globale. E anche il prefetto di Napoli ha detto che queste iniziative sono delle vere e proprie macchine da guerra contro la malavita organizzata. Siamo contenti e lo crediamo anche noi, infatti abbiamo voluto raccontare e presentare questa mappa. Grazie davvero Console, buon lavoro a lei e a tutto il suo team. Allora grazie a lei e veramente anche buona giornata a lei e di nuovo anche a tutti gli ascoltatori voi, vostri. Grazie, buona giornata, buon buona sabato. Buona giornata. Europost-it. A Berlino è ufficialmente arrivato il Natale. Dall'inizio di questa settimana, Berlino ha aperto le porte allo spirito del Natale con i suoi famosi mercatini e attrazioni aperte fino a tardi. Date un'occhiata al famoso Gendarmenmarkt, dove potrete ammirare scalpellini e intagliatori all'opera o godervi gli spettacoli di giocoleria. Fate un giro sulla ruota panoramica di Alexanderplatz oppure concedetevi una passeggiata con vin brûlé bollente al Lucia Christmas Market, allestito all'interno della Kulturbrauerei, il birrificio convertito in centro culturale nel cuore del quartiere bohemien di Prenzlauer Berg. Quasi tutti i mercatini sono aperti fino alle 22, perfetti quindi per una passeggiatina dopo cena. Per maggiori informazioni visitate il sito mercatini-natale.com. Questi sono tutti i nostri Europost-it che potete trovare in Facebook oppure sulle nostre pagine radio24.it da lunedì, quando la puntata è riascoltabile in podcast. Parliamo adesso invece di stage in Europa e lo facciamo con Ginevra Benini, ricercatrice dell'ISFOL, perché è appena stato presentato un manuale dello stage in Europa, nuova edizione, appunto opera dell'ISFOL, che è l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori. Buongiorno Benini. Buongiorno a lei. È un lavoro importante, un lavoro bello, un lavoro molto pratico, perché avete sì raccontato l'importanza dello stage, tutti lo conosciamo, però in chiave europea, quindi come affrontare uno stage all'interno dell'Unione Europea. È cosa complicata affrontare uno stage fuori dall'Italia? Se si trova il promotore giusto, assolutamente no. La cosa importante che diciamo in questo manuale è che rispetto a quello che succedeva qualche anno fa, prima della crisi, quando un ragazzo decideva di fare uno stage in Europa normalmente dopo la laurea specialistica, suggeriamo di anticipare assolutamente i tempi e di farlo ad esempio subito dopo la maturità, dopo essersi preso le necessarie certificazioni linguistiche indispensabili, oppure anche nel caso in cui uno voglia prendersi un periodo di tempo, il famoso anno sabbatico, prima di fare in modo giusto l'università che più gli interessa. Quindi un'esperienza utilissima da fare, però anticipando i tempi rispetto a quello che facevano prima i ragazzi italiani. Certo, il manuale è scaricabile in internet dal sito www.isfol.it, abbiamo messo il link diretto sulle nostre pagine in Facebook. Benini, un consiglio pratico però, un ragazzo o una ragazza che decidessero di fare uno stage in Europa, qual è il punto di partenza? Cioè qual è la prima finestra che devono aprire per avere un po' di dritte? Allora, come ho detto prima, bisogna sapere benissimo la lingua straniera del paese, o meglio, parlata nell'azienda nella quale si è scelto lo stage. Quindi informarsi sulla certificazione linguistica, per esempio dell'inglese, del francese o dello spagnolo. Dopodiché trovarsi il promotore giusto, che può essere o tramite un progetto europeo, per esempio i progetti Leonardo, di cui immagino abbiate parlato altre volte nelle vostre trasmissioni, o direttamente online attraverso i siti internet. Nelle schede paese del nostro manuale abbiamo una ricchissima serie di informazioni proprio sulla candidatura libera, cioè quali sono i modi per conoscere tutte le opportunità di stage anche online, e quindi questa potrebbe essere la via, una via ufficiale istituzionale e una via invece autonoma, ecco, queste sono le due possibilità. Perfetto, complimenti per il lavoro, perché è veramente molto ricco e molto chiaro, che insomma sono due caratteristiche sì, importanti. Isfol.it per tutte le informazioni all'interno del sito. Grazie, buon siamo sabato. Siamo contenti e grazie. Grazie. L'avrete riconosciuta, insomma, grazie. La contaminazione culturale passa anche da queste cose, grazie. Dalla musica, questa è a te, di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, una canzone bellissima in una versione olandese di Guus Meeuwis, che l'ha tradotta, l'ha fatta sua ed è diventata un successone anche in Olanda, un pezzo molto bello al di là dei confini. Quando Lorenzo me l'ha fatta sentire mi è piaciuta tanto. Per noi l'altra Europa è anche questo, anche perché andiamo a parlare di confronto culturale, lo facciamo parlando di cucine. Infatti ho già visto il gastronauta dall'altra parte del vetro che subito è entrato, benché non credo conosca il prossimo ospite. Diamole benvenuto a Carlo Albertoli. Ciao Carlo. No, ti sento lontanissimo, ci sei? Ci sono. Eccolo lì, ciao Carlo, benvenuto all'altra Europa. Una storia di un italiano che è andato all'estero e si è inventato un lavoro così, giocando su quello che è meglio, una delle cose che meglio sappiamo fare in Italia, che è cucinare. Carlo, la tua è stata anche una storia di cambio di vita, perché tu avevi a che fare con la musica, se non erro. Ebbene sì, ho fatto il discografico per una quindicina d'anni e poi mi sono reinventato come cuoco in Inghilterra. Ecco, che vabbè, chi l'avrebbe mai detto una storia magari simile a quella di tanti altri, perché insomma sono tanti i cuochi che vanno a lavorare all'estero. Tu però non hai aperto un ristorante, tu fai il cuoco a domicilio. Ma io non sono un cuoco prima di tutto, io sono un discografico che cucina, o meglio ero, adesso non lo so più. Sì, cuoco a domicilio, perché altro non potevo fare. Ho dovuto inventarmi una cosa da zero e questa è stata la prima idea, prima che diventasse di moda, e andare a casa delle gente a cucinare per 2, 4, 6, 12, poi piano piano sono diventati 20, 30, 40, fino anche a 200. Mm-hmm. Tutto ciò a Brighton, dove tu vivi, o vai anche Brighton in trasferta? Io vivo a Brighton, però viaggio, diciamo, la maggior parte dei miei lavori sono a Londra e poi tutto il sud-est, che è una zona ricca e affamata che servo volentieri. Ok, cioè, ma e perché scelgono te? Nel senso, non sarai l'unico a fare questo lavoro. Piace il sapore italiano? Piace il nome italiano? O hai trovato anche delle chiavi di promozione particolari? Prima di tutto, io ho questa piccola nicchia di italianità che non è molto frequentata, non ce ne sono tantissime, e poi comunque se sono facile da trovare su internet, mi avete trovato voi, ma anche se un inglese cerca personal chef su Google è facile che io sia in cima ai risultati, soprattutto se ci mettono anche Italia, no? Mm-hmm. Per cui è quello il modo in cui trovo lavoro. La cosa ti piace? Hai a che fare appunto con le famiglie inglesi? Hai una specialità tutta tua? Ma la mia specialità è quella di integrare la cucina italiana e i prodotti del territorio, o viceversa, fare cose locali con un accento italiano. Mm-hmm. Quella è la cosa più originale che propongo, che non propone nessun altro. Scegli anche le musiche? No, quello no. Ah no, ok. Sono due mondi completamente diversi che non si sono mai incrociati. No, non ce l'hai fatta. Mi piaceva come idea, insomma, dello chef che fosse anche non era l'idea originale, ma non... L'idea originale era quella di organizzare serate di musica e cibo in locali, ma poi era stata un'idea troppo difficile da mettere in pratica. Ho capito. E, dai, ti facciamo anche i conti in tasca, Carlo. Ci si campa con un lavoro del genere in Inghilterra? La risposta breve è no. E quella meno breve? Adesso, io adesso ho una gastronomia, ho anche affiancato una gastronomia a questo lavoro. Ok, perché comunque alla fine sono solo 4 i sabati, 4-5 i sabati in un anno, la gente mangia solo a sabato, è bello, è un bel lavoro, è divertente, ma non basta per campare. Infatti io avevo cominciato già a espandermi nel catering per matrimoni e grossi eventi, e poi adesso ho una gastronomia, continuo a andare a casa della gente perché mi piace, sono curioso, però non si campa veramente. www.lalinietacena.co.uk, questo è il sito, l'abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine in Facebook. Ciao Carlo, complimenti e buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Questa è l'Altra Europa, questa è Radio 24. Un grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Un grazie a Margherita Ina che con me ha scritto la puntata insieme a Viola Frifa. Giorgio De Luca oggi in assistenza. Peter Bescapè alla parte tecnica. Radio24.it, Facebook e Twitter sono le coordinate virtuali dove ci potete trovare. Ancora ciao da Federico Taddia.